Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo a parlare dei recenti aumenti sia del gas ma soprattutto dell'energia elettrica. Lo facciamo in compagnia di Alberto Biancardi, componente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che è tornato a trovarci. Buonasera Biancardi. Buonasera. Dunque Biancardi, faccio un riassunto rapidissimo di quello che abbiamo detto ieri. Abbiamo visto che gran parte di questi aumenti sono dovuti, per il 60% più o meno, alle rinnovabili e in particolare al fotovoltaico. Abbiamo visto che c'è una dinamica per cui arriveranno ulteriori aumenti in futuro e già oggi complessivamente sulla bolletta della famiglia italiana più o meno un 20% può essere collegato allo sviluppo delle rinnovabili, tra costi diretti, quindi gli incentivi, e costi indiretti, quindi costi che servono a fare tutti quegli interventi sulla rete necessari a fare circolare questa forma di energia prodotta dal sole che è discontinua. Ecco, allora, una delle obiezioni di Consum, per esempio, vi ha criticato dicendo che questi sono degli aumenti automatici, che l'autorità potrebbe trovare, insomma, il modo di schivare questi aumenti, per esempio proponendo come ridurre i costi legati agli oneri di distribuzione, facendo ricadere sui produttori invece che sui consumatori gli oneri legati alle connessioni, per esempio, del fotovoltaico. E in più c'è questa vecchia storia che viene sempre ripetuta, che sulla bolletta elettrica gravano anche degli oneri impropri, come per esempio lo smantellamento delle centrali nucleari, il famoso CIP 6, cioè il finanziamento agli inceneritori. Allora io vorrei capire se effettivamente ci sono delle modalità per ridurre la bolletta elettrica sostanzialmente senza toccare gli incentivi alle rinnovabili, o se invece bisognerà necessariamente andare in quella direzione. Cominciamo da questi cosiddetti oneri impropri di cui tutti parlano. Se togliamo questi oneri, cambia tutto? No, diciamo che, tanto per darle un ordine di grandezza, a fronte di un ammontare di oneri oramai direi sugli ordini degli 11 miliardi, questi oneri complessivamente possono valere, diciamo, 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo all'anno. Gli altri 9 sono incentivi alle rinnovabili elettriche, soprattutto al fotovoltaico, che fa la parte del leone. E qui si pone il primo problema, diciamolo un po' Biancardi, perché sembra che chi fa notare queste cose sia contro alle rinnovabili. Invece questa è la mia posizione, la dichiaro apertamente. Abbiamo avuto una tecnologia, il fotovoltaico, che ha fatto da asso, piglia tutto, si è aggiudicato praticamente tutte le risorse disponibili che l'Italia poteva investire, o quasi, sulle rinnovabili, ed è rimasto poco o nulla per tutti gli altri. Basta vedere anche le bozze di decreto che stanno girando, che infatti prevedono sviluppi risibili per tutte le altre rinnovabili elettriche, termiche e così via. Assolutamente vero, le do un altro importo per capire l'ordine di grandezza. Lo strumento efficienza energetica, che è molto ampio perché riguarda tantissimi interventi che sono fatti sia sugli impianti industriali di efficientamento, di riduzione dei costi, quindi e di riduzione anche delle emissioni di gas serra, fatti anche nelle nostre case, dall'inizio, cioè diciamo in 6-7 anni, complessivamente hanno goduto di incentivazione pari a mezzo miliardo di euro, ecco, all'anno complessivamente. Questa cosa fa anche un po' arrabbiare sentirsela dire. Io le chiedo a questo punto, ma se noi avessimo messo, perché questo il punto di cui forse dovremmo parlare, se noi avessimo, come dire, messo sul piatto 7 miliardi all'anno per 20 anni, ma sull'efficienza energetica, noi credo che avremmo cambiato volto a questo paese. Beh sì, evidentemente forse non ce l'avremmo nemmeno fatta a spendere 7 miliardi sull'efficienza energetica, però sicuramente un mix più equilibrato, anche semplicemente uno spostamento in avanti di alcuni investimenti del fotovoltaico, visto il sensibile calo di costo, dei costi, avrebbe dato sicuramente sollievo alla bolletta dei consumatori. È possibile abbattere il costo di produzione e di spacciamento dell'energia elettrica? Sarebbe la cosa migliore da fare. Direi di sì, ci sono molti interventi che possono essere pensati. Sicuramente l'abbassamento del prezzo del gas si ripercuote in un abbassamento del prezzo dell'energia. Quindi perseguire una strategia di riduzione del costo del gas, che però è una strategia che funziona nel corso degli anni, non certo delle settimane, è una cosa da fare. Assolutamente, quindi maggiori infrastrutture e controllo alle rendite, perché dove ce ne sono, hanno, in un paese come l'Italia che va molto a gas, hanno un effetto duplice, sia per chi consuma gas sia per chi produce e consuma energia elettrica. Questo, diciamo, è l'aspetto principale, ma poi ce ne sono anche altri, perché le infrastrutture elettriche, le reti, alcune congestioni sulla nostra rete di trasmissione soprattutto costano centinaia di milioni all'anno per congestione, quindi in alcuni casi sbottigliare, come diciamo noi in gergo, il sistema in 2 o 3 punti può dare un miglioramento in termini di costi dell'ordine del 1 miliardo di euro, anche di più. Diciamo che non c'è una cosa da fare, ci sono diverse attività e bisogna farle. Se posso aggiungere anche una cosa su cui stiamo lavorando, è la responsabilizzazione delle fonti rinnovabili, appunto perché le fonti rinnovabili sono spesso aleatorie, quindi è difficile prevedere quando producono, quanto e quindi generano dei costi. Si può pensare, ci stiamo lavorando, che parte di questi costi vengano direttamente imputati ai produttori e quindi non vadano nella bolletta elettrica, ma vadano a diminuire gli incentivi che gli stessi produttori poi intascano. Alla fine bisognerà tagliarli? Gli incentivi che sono stati destinati o si pensava di destinare alle rinnovabili? Questo è un argomento delicato, perché in un settore così importante per l'economia, anche per dare la sicurezza agli investitori, il taglio è da valutare con estrema cautela. È un paese che viene accusato, l'Italia, di cambiare continuamente le carte in tavola, è vero. Però sicuramente in qualche caso dove si riscontrano, dati alla mano, delle particolari situazioni di rendita, secondo me si può intervenire, probabilmente, come è stato già detto da altri, usando la leva della fiscalità. Quindi non tanto dell'abbassamento dell'incentivazione, ma mettendo qualche balzello a chi ha, diciamo, beneficiato di un conto energia molto generoso. Questa è una possibilità, secondo lei, insomma? Sì, se ne è già parlato, ne stiamo parlando, evidentemente è una possibilità. Noi la decisione ci mancherebbe. Naturalmente. Altro, però ci sono spazi. Grazie Alberto Biancardi. Grazie a voi, arrivederci. È tutto, a domani.